Era proprio un vero peccato che un giovine così ricco di doni intellettuali, qual era ovviamente il suo vicino, dovesse perdere il suo tempo prezioso con donne di facili costumi, che potevano fargli uno di quei regalini che poi durano tutta una vita. Per quanto riguarda il beato stato del celibato, giorno verrà in cui egli si accaserà, allorché comparirà in scena la donna del sogno. Ma nel frattempo la compagnia femminile era una condizio sine qua non, per quanto nutrisse i più atroci dubbi, senza voler minimamente che Steven si sbottonasse a proposito di Miss Ferguson, che era con tutta probabilità la calamita che l'aveva attirato a Irish Town così di buon mattino, circa il fatto se egli potesse mai bearsi o trovar molta soddisfazione nell'idea dell'amore con le mani in mano. E nella compagnia di smorfiosette senza il becco di un quattrino, 2 o 3 volte alla settimana, col tran tran preliminare e ortodosso dei complimenti e delle passeggiatine che sfociano nelle moine degli innamorati e nei fiori e nei cioccolatini. Il pensiero che era senza casa e senza famiglia, alla mercé di qualche padrona di casa, peggiore di qualsiasi matrigna, era veramente un guaio alla sua età. Le cose strane e inaspettate che egli sbottava a dire attraevano il più anziano dei due, il quale lo era di parecchi anni, o come suo padre, ma qualcosa di sostanzioso doveva pur mangiarlo, magari solo uno zabaione fatto con l'alimento materno non adulterato, oppure in mancanza di questo un bel cocco sodo. A che ora ha pranzato? Si informò dall'esile figura e dal volto stanco, ma ciò non pertanto immune da rughe. Ieri, a una qualche ora, disse Steven. Ieri! Esclamò Bloom, ma a un tratto si ricordò che era già domani, venerdì. Ah, lei vuol dire che è già mezzanotte passata? Avantieri, disse Steven, correggendosi. Letteralmente sconvolto da una siffatta rivelazione, Bloom rifletteva. Per quanto non concordassero in tutto e per tutto, c'era comunque una certa analogia. Come se i loro spiriti viaggiassero, per così dire, su binari paralleli. Alla sua età, quando anche lui pasticciava alla bella e meglio in politica, una ventina d'anni prima, quando era stato un semi-aspirante ad onori parlamentari ai tempi di Buckshot Foster, anch'egli ricordava, risalendo nel tempo, cosa già di per sé fonte di profonda soddisfazione, di aver avuto una furtiva predilezione per quelle stesse idee un po' spinte. Per esempio, quando la questione dei fittavoli sfrattati, allora in sul nascere, si impose massiccia agli occhi di tutti, per quanto, non c'è bisogno di dirlo, senza tirar fuori neppure un soldo, né accettare come articoli di fede quei dettami, alcuni dei quali non stavano né in cielo né in terra, egli all'inizio, e in teoria perlomeno, era del tutto favorevole al diritto dei contadini al possesso delle terre, seguendo in questo la tendenza dell'opinione più aggiornata, faziosità dalla quale comunque, accortosi dell'errore, in seguito parzialmente guarì. Egli fu anche mosso rimprovero di essere andato ancor più in là di Michael DeWitt, in quelle audaci teorie da lui un tempo preconizzate in favore di un ritorno alla terra, e fu questa una delle ragioni per cui si era mostrato assai sensibile all'insinuazione così maldestra e grossolana mossagli al raduno dei clan da Barney Kiernan, cosicché egli, per quanto spesso considerevolmente incompreso e il meno pugnace dei mortali, non lo si ripeterà mai abbastanza, si era dipartito dalle sue consuetudini abituali per dargli, metaforicamente, il fatto suo, benché in fatto di politica fosse purtroppo cosciente delle perdite e dei danni che invariabilmente risultano dalla propaganda e dagli sfoggi di animosità reciproca e l'infelicità e sofferenze che essa comporta come conseguenza inevitabile per la bella gioventù, soprattutto la distruzione dei migliori, in una parola. Comunque, pesati pro e contro, dato che ci si avvicinava alla una, era ormai ora di ritirarsi per la notte. La spina della questione era che era un po' rischioso portarlo a casa sua, perché non si sapeva che cosa potesse nascerne. C'era qualcuno che aveva un suo caratterino un po' infiammabile a volte, E magari poteva succedere un patatrac, come quella notte che sconsigliatamente aveva portato a casa un cane, razza sconosciuta, zoppo di una zampa. Non che i due casi fossero identici, né del tutto l'opposto, per quanto anche lui si fosse fatto male a una mano. A un Terrier Terrace, come distintamente ricordava, essendoci stato già una volta, per così dire. D'altra parte, era ormai di gran lunga passata l'ora per pensare a Sandy Mount o Sandy Cove, così era un po' perplesso circa le due alternative. Tutto concorreva a suggerirgli essere sommamente acconcio che egli si avvalesse al massimo dell'occasione, tutto considerato. La sua impressione iniziale era stata che egli fosse un tantino altezzoso e non troppo espansivo, ma in un certo senso l'idea lo persuadeva sempre più. Ad esempio, egli poteva non fare dei salti alti così, come si dice, a quell'idea, una volta esposta l'offerta, e ciò che più lo preoccupava era il non sapere come arrivarci o come precisamente formularla. Supponendo che prendesse in considerazione la proposta, egli avrebbe fatto un grandissimo piacere se volesse permettergli di aiutarlo a trovare un po' di soldi e un po' di vestiario, se c'era qualcosa che andasse bene. Perlomeno, finì col concludere, eludendo per una volta i convenevoli d'uso, una tazza di cacao Epps e un giaciglio per la notte, oltre all'uso di una coperta o due, e di un soprabito ripiegato a mo' di guanciale, almeno sarebbe stato in buone mani e al calduccio, come un ragno nel buco. Non arrivava a vedere che ci potessero essere inconvenienti, a patto che non facesse nascere un parapiglia. Una qualche mossa bisognava pur farla, perché quel burlettone, il vedovo allegro che sembrava incollato alla sedia, non sembrava davvero avesse una gran furia di muovere il passo verso casa, nella dorata Queenstown, ed era altamente probabile che le tracce della residenza di quell'equivoco messere, per i giorni a venire, si potessero meglio ritrovare in qualche bordello di stretta clausura di Sheriff Street inferiore, dove l'età non era un ostacolo, ora ferendo la loro sensibilità di quelle sirene, con storie di revolver a 6 colpi, ambientate ai tropici e intese a ghiacciare il sangue nelle altrui vene, e ora mantrugiando le loro attrattive straripanti di quando in quando, con un gusto un po' grossolano e violento, innaffiato da abbondanti libagioni di whisky irlandese e le solite panzane sul proprio conto, perché quanto a chi egli veramente fosse, diciamo che il mio nome e indirizzo sono uguali a X, come la signora Algebra Passim dimostra. Al tempo stesso ridacchiava dentro di sé, ripensando alla botta che aveva tirato a quell'eroe dei suoi stivali sul suo dio che era ebreo. La gente poteva anche passar sopra un morso di lupo, ma un morso di pecora faceva girare le scatole, via. Era anche il punto più vulnerabile del tenero Achille. Il tuo dio era ebreo, perché la maggior parte sembrava che si figurasse fosse originario di Carrick-on-Shannon o di qualche posto nella contea di Sligo. Io propongo, suggerì infine il nostro eroe, dopo matura riflessione, nell'intascare prudentemente la foto, poiché qui manca un poco l'aria, che lei venga con me a far due chiacchiere. La mia tana è a 2 passi da qui. Quella roba lì non si può berla. Aspetti, pago tutto io. Il miglior piano, essendo chiaramente quello di squagliarsela, e dopo la cosa sarebbe andata avanti da sé, egli fece un cenno nell'intascare prudentemente la foto al tenutario della bicocca, che non pareva si fosse. Sì, è meglio così, assicurò a Steven, per il quale, quanto a quello, o la testa di bronzo, o Casa Bloom, o un altro posto era più o meno. Ogni sorta di piani utopistici balenavano nel suo, di Bloom, febbrile cervello. Istruzione, quella autentica, letteratura, giornalismo, racconti a premio, pubblicità all'ultima moda, tournée di concerti in stazioni balneari inglesi, piene zeppe di luoghi di cure e teatri. Tutto esaurito, duetti in italiano con l'accento assolutamente fedele al naturale e un sacco di altre cose. Nessun bisogno, si intende, di andarlo a gridare ai 420, solo un po' di fortuna. Bastava gli dessero una chance, perché egli fortemente sospettava che lui avesse la voce di suo padre, su cui fondare le sue speranze, E c'erano buone probabilità che fosse così. E quindi si poteva benissimo, niente di male del resto, orientare il discorso su quella talpista. Il fiaccheraio lesse sul giornale di cui si era impossessato che l'ex viceré, il conte Cadogan, aveva presieduto il banchetto dell'Associazione dei Vetturini a Londra, non si sapeva bene dove. Un gran silenzio con uno o due sbadigli accompagnò l'emozionante annuncio. Poi quel vecchio arnese nell'angolo, che pareva avere ancora in sé qualche scintilla di vitalità, lesse ad alta voce che Sir Anthony Macdonald era partito da Euston per raggiungere la residenza del capo gabinetto o qualcosa di molto simile. A tale affascinante informazione, l'eco rispose: perché? Fammi dare un po' un'occhiata, nonno. Si intromise l'antico marinaio manifestando una qualche naturale impazienza. Ma certo, serviti, rispose l'anziano messere in tal modo apostrofato. Il marinaio cavò da un astuccio che aveva un paio di occhialoni verdi che inforcò lentissimamente sul naso e sulle orecchie. La vista non va? Chiese quel caritatevole personaggio che somigliava al segretario comunale. Beh, rispose il navigante con la barba di tartan, che apparentemente era anche lui un intellettuale nel suo piccolo, guardando da quegli oblò verde mare, come ben si potevano definire. Li uso per leggere. È stata la sabbia del Mar Rosso. Un tempo leggevo anche al buio, per modo di dire. Le mille e una notte erano la mia passione. E rossa come una rosa. Al che squadernò il giornale e si sprofondò a leggere Dio sa che cosa, un caso d'annegamento o le prodezze del re del cricket, Aimonger della squadra del Nottinghamshire, che aveva fatto 100 e più punti al secondo wicket e ancora non aveva finito. E in tutto quel tempo il tenutario, cui non caleva di ire, era intensamente occupato a sciogliere le stringhe di una scarpa apparentemente nuova, o magari di seconda mano, che palesemente gli stava stretta, poiché gli borbottava contro chi gliel'aveva venduta, mentre quelli tra di loro che erano abbastanza svegli da essere riconosciuti dalle loro espressioni facciali, come suol dirsi, o si limitavano a guardare a muso duro, o buttavano là qualche osservazione a caso. Per farla breve, Bloom, afferrando la situazione, fu il primo ad alzarsi dal suo posto per non metterci le radici, dopo aver innanzitutto, essendo uomo di parola e avendo detto che si sarebbe accollato il conto per quella volta, preso la saggia precauzione di fare un cenno quasi impercettibile al nostro oste come mossa finale, in un momento in cui gli altri non guardavano, così da dargli a divedere che la somma dovutagli era a sua disposizione, la quale poi ammontava a un totale complessivo di 4 pence, e depose senza averne l'aria tale ammontare sul tavolo sotto forma di 4 monete di rame, proprio le ultime dei Moicani. Avendo precedentemente controllato sul listino dei prezzi stampato e messo in mostra per chiunque capitasse lì, davanti a lui, in cifre indiscutibili, caffè 2 pence. Maritozzo, idem. E onestamente le consumazioni valevano almeno il doppio, una volta tanto, come soleva dire Wetherup. Venga, consigliò per togliere la séance. Vedendo che il trucco funzionava e che la costa era sgombra, lasciarono insieme il rifugio o baracca e quella élite, il lupo di mare e compagnia bella, che solo un terremoto avrebbe potuto scuotere dal loro dolce far niente. Steven, che confessava di sentirsi tuttora sconquassato, si fermò alla un momento alla porta. Una cosa non ho mai capito, disse, per farlo originale lì per là. Perché rivoltano i tavoli la sera? Voglio dire, le sedie rivoltate sui tavoli nei caffè. A questa estemporanea uscita, l'infallibile Bloom dette risposta senza esitare un istante, dicendo di filato: per spazzare l'impiantito la mattina. Nel dir così saltellò intorno, agilmente considerando, francamente e contemporaneamente scusandosi, l'eventualità di passare a destra del compagno, una sua abitudine, sia detto per inciso, essendo la destra, per citare un esempio classico, il suo tallone d'Achille. L'aria della notte era veramente deliziosa a respirarsi ora, per quanto Steven non fosse troppo saldo sulle gambe. «Le farà l'aria, bene», disse Bloom, alludendo anche al camminare, «tra qualche minuto. Non c'è che da camminare un po' per sentirsi un'altra persona. Venga, non è lontano, si appoggi a me». In conseguenza passò il braccio sinistro sotto il destro di Steven e lo fece andare avanti in conseguenza. «Sì», disse Steven incerto, perché gli pareva di sentirsi toccare da una strana carne estranea, snervata, flaccida e così via. Comunque passarono davanti alla garitta con le pietre, il braciere, eccetera, dove quell'avventizio municipale, l'ex Gamli, era ancora avvolto a tutti gli effetti tra le braccia di Morfeo, come suona l'antico adagio, sognando d'altri campi e nuovi pascoli. E, a proposito della bara piena di pietre, l'analogia non era del tutto fuori luogo, perché in effetti l'avevano proprio lapidato, quelle 72 su 80 e più circoscrizioni che voltarono gabbana al momento della scissione, e soprattutto la decantata classe dei contadini, probabilmente gli stessi fittavoli sfrattati cui aveva fatto dare le terre.